Europa 24. L'Italia è per storia e tradizione nel cuore dell'Europa, ma l'Europa di oggi non ci basta, vogliamo molto di più e molto di meglio. Così Enrico Letta questa mattina in Senato in vista del Consiglio europeo straordinario di domani. Tutti abbiamo voluto questo dibattito perché l'Europa lo merita, lo meritano i popoli europei che fronteggiano la più grossa crisi economica dei tempi recenti. Quello che non meritano, ha detto Letta, sono le tensioni, lo scontro politico fatto sovente di contrasti pregiudiziali. L'Europa dia risposte dunque e non sia una gabbia. Sentiamo un passaggio del Premier. Senza gli Stati Uniti d'Europa ogni progresso, anche il più ambizioso e faticoso, rischia di essere svuotato di senso. Senza gli Stati Uniti d'Europa, il futuro dei popoli europei, oltre che delle istituzioni comunitarie, resta una chimera. Nei mesi che portano alle prossime elezioni europee, ci giocheremo tutto per cambiare direzione e costruire un'Europa diversa da quella che in questi anni ha fatto montare tanto euroscetticismo, non solo, ma anche nel nostro Paese. L'Italia deve contribuire a scrivere questa nuova trama della storia dell'Unione Europea. E di certo ci giocheremo molto anche nelle relazioni con l'Africa in chiave economica, in chiave di immigrazione. Intanto 25 maggio Africa Liberation Day, quest'anno l'Unione Africana si riunisce a Luanda in Angola, dove il boom economico del petrolio ha letteralmente trasformato il paese. Noi abbiamo voluto dare spazio a una riflessione sui rapporti tra l'Europa e l'Africa, diamo spunto spazio al professor Jean-Paul Pugalà, che è italo-camerunese. Gli abbiamo chiesto se l'impegno assunto dall'Unione Europea in Mali, che è impegno militare e finanziario, possa rappresentare una nuova partenza dei rapporti euro-africani. Ecco la sua risposta. Assolutamente no, perché quello che serve è il cambiamento della filosofia. Cioè, per gli europei l'Africa è sempre vista come il punto dove andare a prendere le materie prime, ma l'Africa non è più quella. Parliamo del Mali. L'Unione Europea 2 anni fa ha votato all'unanimità per andare a fare la guerra in Libia, perché Gheddafi era quello che finanziava la Federazione Africana, bisognava toglierlo di mezzo. Sono le armi che hanno dato ai ribelli in Libia che sono finite in Mali. Cioè, oggi l'incendiario che viene a giocare a fare pompiere non va. Quindi queste promesse di dare 3 miliardi al Mali, queste promesse le abbiamo già sentite. L'OCSE dice per 20 anni il G7 ha promesso all'Africa 50 miliardi di dollari. Da quei 50 miliardi sono entrati poco meno di 2 miliardi. Quindi queste promesse le conosciamo già. Il mondo è cambiato, l'Europa deve capire che dovrà fare gioco pulito questa volta, sia perché l'Europa non ha più i mezzi, sia perché l'Africa oggi ha la Cina che mette i soldi sul tavolo. La Cina, torneremo a parlare di questo aspetto delle relazioni con l'Africa. Vi segnalo intanto, chi fosse interessato ai temi della geostrategia africana, l'African Summer School sostenuta dal comune di Verona. Abbiamo messo tutti i dettagli sul sito di radio24.it. E adesso concludiamo come sempre con la segnalazione quotidiana di Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare una mostra appena inaugurata all'interno del Parlamentarium, il centro visitatori multimediale del Parlamento europeo a Bruxelles. Fino al 6 ottobre sarà infatti esposto il premio Nobel per la pace, ricevuto dall'Unione Europea nel 2012, e inserito all'interno di un percorso didattico che accompagna i cittadini alla scoperta della storia dell'Europa, attraverso le risoluzioni dei conflitti, le negoziazioni e i compromessi. Sarà quindi possibile vedere la medaglia e il certificato del premio Nobel, ascoltare i presidenti delle istituzioni sul futuro dell'Unione e lasciare il proprio messaggio di pace. Per informazioni www.europarl.it. E naturalmente tutto quanto su radio24.it, dove trovate anche la mail europa@radio24.it per vostre segnalazioni e richieste. Con questo abbiamo concluso. Filippo Auregi in regia, Gigi Donelli al microfono. Torniamo naturalmente domani. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.